Libia, c'è un traffico. Che loro stessi fanno il traffico per fare traversare delle persone in Libia a Italia. A Italia. Questo traffico si... E loro stessi, i politici, loro colonnelli, chi fanno loro cosa, si chiedono voi soldi e loro preparano una barca e ti fanno entrare voi dentro e ti mandano voi all'Italia, ti mandano voi all'acqua, anche se voi dovete morire all'acqua. Per loro non interessa loro. Ho contattato una colonnello della Libia. Ha detto che il viaggio si fa 1000 euro, una persona, 1000 euro. E hanno dato noi una casa che tu dovrai entrare dentro e poi tu dovrai aspettare quando arrivano 50 persone, quando voi dovrete fare un chiffre delle persone assai e cercano una barca per traversare. E come io sono un cristiano che prega Dio, era domenica. Sono uscito alla strada perché c'era sempre una chiesa a Medina, una chiesa, solo a tutto il paese, solo una chiesa per i cristiani a Medina che possano andare a pregare lì. Hanno visto me perché questa zona è una zona molto sospetta che hanno messo noi per aspettare i viaggi. Quando sono uscito, hanno visto me lì. Quando hanno visto me lì, la polizia è venuta, mi ha arrestato, mi ha preso. Ma dove vai? Ho detto, no, vado a chiesa con la Bibbia. Legnate, hanno cominciato a dare me direttamente legnate. Hanno preso me direttamente a cofrono di macchina. Io non sapevo anche dove vai. Hanno messo me direttamente a cofrono di macchina, subito lì in carcere. Mi sono chiesto, ma cosa io ho fatto in arabo? Hanno detto, ma no, tu devi restare lì, sei un cristiano, bastardo. Lì in carcere noi mangiavamo una volta al giorno, ma davo noi legnate tre volte al giorno. Di mattina, legnate di pranzo e legnate di sera, prima di dormire. Legnate. Hanno tagliato l'orecchio di una persona che io ho visto così dentro il carcere. Hanno tagliato l'orecchio, legnate su piedi. Io tutti i miei piedi lì in carcere e ho gonfiato così, perché... Hanno preso te così, hanno fatto alzare i piedi sopra, legnate qua. Tu hai fatto niente tu hai fatto. Tu non hai rubato, non hai fatto niente del male. È una carcere che non è anche in città così, questo carcere. Vicino al deserto, una casa così che non c'è la luce, non c'è niente. Voi tutti, voi dormite lì dentro, sul buio. Voi tutti sul buio per fare pipì sempre lì dentro. Quindi di mattina, voi faccio tutto dentro lì per fare caca, pipì dentro. Di mattina è una persona che fra di voi, una persona che pulisco lì di mattina. Io ero in carcere a Zuara. Questa città io conosco bene, questa città Zuara. È il carcere della Libia, dove c'è il carcere a Zuara. Sono andati, hanno trasferito me a Mustarata. Mustarata. Con sole di 50 gradi hanno preso voi petto nudo così, dormivo sotto qua. Tutti a guardare il sole così. Se tu fermi occhi così, legnata la testa. Quindi occhi deve sempre essere aperto così, anche un'ora a vedere il sole. D'altre persone sono uscite a questo carcere. Non si vede ancora bene con...